Uwe Bain si aggira per il campo come un soldatino di piombo, regala un sorriso e il pallone a Breme che organizza una carciofalba verso Mateus. Ancora Andy Breme potrebbe rilanciare, un bel pallone a Nurko verso Buchenwald che riserve Litbarski, oppure Derval che è entrato in campo e d'altra parte dalla sua stazza si capisce non poteva pervenire un pallone più squallido. Litbarski va a rimettere, vedete Pairetto inquadrato, ci facciamo onore in questi mondiali. Era Pairetto di Torino. Pairetto di Torino, ti esatto. Ti piace la menta? Ma sei scemo come fa? Era quello che gli stavo dicendo. No, avete visto? Il giocatore Ali Abdullah Mhangaha per stuzzicarlo. Non so se avete 13 visto. Si è visto, lui aveva messo in fallo laterale non sapendo che l'arbitro aveva fischiato il calcio di punizione, per paura che ci fosse Litbarski che lo inseguiva, ha messo in fallo laterale e tutto ciò l'ha fatto dicendo a guardialine ti piace la menta, la palla no, ma come esce quel portiere, esce al contrario con le spalle, mio. Madonna mia, e lo vorremmo rivedere questo strano atteggiamento clownesco del portiere Mohsin Mozabbah Faraj. Sarebbe veramente bello, purtroppo non c'è il replay perché ci vogliono mostrare invece il calcio d'angolo che sta per effettuare con un cross a brioche, in questo caso col piede destro, Andreas Bremo, un giocatore che crossa indifferentemente con entrambi i piedi, tanto sbagli in ogni caso. Oddio. Riusciamo in qualche modo a liberare, allontanare la minaccia, ma c'è ancora Matteus che orchestra il gioco lanciando di precisione sulla destra. Fuori gioco. Vedete, chi l'ha segnalato? Ha segnato Pairetto, vedete l'arbitro che gli va a dire ti piace la menta e Pairetto di Torino dice sì. Rivediamo ancora l'azione, fuori gioco nettissimo di due giocatori addirittura, non di uno. Il portiere perde tempo, siamo sul 4-1. Cosa fa questo? È il ballo del 4-4. Piri piri baravanti. Si riprende con un calcio di punizione che viene effettuato lasciando passare quella mezz'oretta che rende tutti più felici e allegri. È scoccato il 20esimo, 25 minuti al termine. La Germania potrebbe buttare dentro un'altra decina e essere così la squadra che più ha segnato in queste due prime giornate dei mondiali. Esprimiti pure in lingua svizzera, Carlo. Ha segnato 4 reti alla Jugoslavia e altre 4 oggi agli Emirati. Se volete mi esprimo io in lingua svizzera. Ecco la palla a Rüdiger Völler che la dà al signor Bernas. Ma sei veramente un uomo dagli accenti incredibili. Un imitatore nato nella nostra cabina radiofonica si è inserito mentre Buchenwald, Mateus, Breme e alcuni amici dell'Oktoberfest si scandagliano in avanti. C'era anche un barile di birra in mezzo al campo, ma oggi è proibito bere. L'abbiamo notato e anche. Quindi è stato ammonito subito dall'arbitro. No, è stato portato fuori a calci e Pairetto gli ha detto una frase che però io non ho udito, non so se tu, Giorgio, che gli ha detto. Vicino. Gli ha detto ti piace la menta. Lui non ha risposto, è per questo che è stato quindi cacciato dal campo. E sono di nuovo i tedeschi che si fanno in avanti, attenzione Sturtruppel, vai Rüdiger Völler, scarta anche se scemo, c'è Andreas Breme che rimette al centro il portiere, esce con le pidotte davanti, cacciate quel cretino, abbiamo citato l'incontro anche in questa occasione, lo ringraziamo, complimenti, gli piace la menta credo, è ancora menta, no, ma lasciateli giocare. Il portiere della Germania si è dimostrato altrettanto cretino, è uscito come un sacco di patate anche lui, complimenti, abbiamo voi pensate due cartofi, il portiere degli Emirati Arabi come si sente che c'è la mondovisione collegata, tutto il mondo lo guarda in questo momento e tutto il mondo può rendersi conto di quando sia cretino e fra l'altro giocatore. Tutto il mondo è paese, lo ricordiamo, Rüdiger Völler si gira e si volta come Carla Fracci in un parte la Barbogia idiota totale. Cosa ha detto Pairetto di questa azione? Ha detto Giorgio? Caro il mio portiere ti piace la menta. Il portiere non ha neanche sentito perché è rintronato da questa cannonata. Rivediamolo ancora. Ecco la presa con le adenoidi. Un genio questo portiere. Eccolo qui. Boom. Vabbè, bello sto fermo immagine prima che tocchi il pallone, molto significativo, grazie a Lissone Liponetti, cioè, no, regista. Dovrei leggere questa sovrimpressione che parla chiaro, tiri in porta 14 per la Germania. E uno per gli Emirati che... Un tiro, un gol, non il 100% di realizzazione. Quindi gli Emirati, se il calcio veramente non è un'opinione, e non lo è, meritano vincendo. Di più, perché se facessero esatto. 3 tiri in porta potrebbero pareggiare. No, con 3 forse no, perché... Uno sì, ogni tiro che sei... Che ma con 3 tiri in porta perderebbero 4-3, Giorgio. No, sono sull'1. Se non avesse fatto fatto una scuola per carcerati, forse sarebbe meglio. Capito assolutamente, se tu fai tre tiri, fai tre gol, ne hai già uno, vai a quattro. Forse e il Pairetto andrebbe con la bandierina al centro urlando: ti piace la menta. Riparte Augenthaler appoggiato sulla destra Buchwald, e da Buchwald la palla va a Littbarski. È strana la configurazione tattica che ha assunto la Germania nel secondo tempo. Ha spostato in posizione centrale. Sì, Beckenbauer nel secondo tempo, scusami Carlo, ma ha adottato il classico modulo della supercazzola prematurata. È un modulo che chi lo conosce non ci deve ascoltare, perché sa benissimo come viene applicato. Lo praticava anni fa l'Ungheria di Puskas e Ideguti. Abbiamo perso la palla in maniera triste. Abbiamo chi, scusami? Noi che abbiamo tifato per il primo tempo, sbagliando purtroppo per gli Emirati Arabi. Ma sbagliando si impara. Ma non ce ne siamo ancora pentiti, vogliamo vedere la quinta rete. E vabbè, cos'è? Una mossa di karate di Jürgen Klinsmann, ha ucciso con un garontolo un uomo al centro del campo. E pare anche... che questo non sia gradito dalla terna arbitrale. Sì, chissà, e soprattutto da Pairetto, che ha urlato nell'occasione: ti piace la menta. Ecco che scambiano quindi gli emiresi arabeschi al portierone, questo Mattacchione, diciamolo, è stato... Ecco, vi faccio notare, Giorgio, scusami un attimo, sì, che la tribuna blu di fronte a questa inquadratura è assolutamente vuota, non perché non ci sia gente, ma perché sta diluviando, no, la copertura è vuota, per far vedere che è blu, perché altrimenti sarebbe la gente e nessuno se ne potrebbe accorgere. Tutti si chiedono, ma qual è la tribuna blu? Ecco, tutti quella. Indicano quella e chi lì. È? Entra Riedel, un giocatore della Lazio, finalmente in campo in questi mondiali, era da tanto che lo aspettavamo, visto che era da due giorni. Rubens Sosa l'altro era giorno. Due giorni che non ne vedevamo uno. Sì, ma l'altro aveva sbagliato un rigore, quindi è meglio vedere l'altra punta della Lazio. Anzi, anche da due giorni, vabbè, perché aveva giocato anche Troglio nell'Argentina. Però, ripensandoci bene, non da due giorni, ma da due giorni. No, da 48 ore più esattamente. Sì, vorrei essere più preciso, sono più o meno due giorni, la palla, grande, sei il mio idolo! È veramente geniale vivacizzare l'incontro, la lungimiranza di Mosim Moussaba Farage, mentre riparte sulla destra, sbrondandosi repentina l'azione degli Emirati. Purtroppo il lancio è troppo lungo, infatti lunga il commento di Föller. Sì, ma noi ridiamo, ma noi contro gli Emirati probabilmente saremo chiusi in difesa, noi italiani, a difendere l'1-0. Avendo sbagliato un paio di calci di rigore, in giro ci sarebbero nostri connazionali molto furbi a festeggiare con le bandiere, allè, siamo forti, la Batmobile è ancora bella pronta qui fuori. Sta per uscire anche Klinsmann, a quanto mi pare di capire, ho letto il numero 18 in mano al delegato FIFA. Hai letto il numero 18? 18, sì. Hai fatto bene a dire 18, si va avanti così, nel frattempo la Germania viene avanti con accuse di opinione, dubbi di qualunquismo, a centrocampo Lothar Matthäus, una spelonga, crittografata in avanti. Sai perché non l'ha presa? Perché è lungimirante. No, credo, perché era lunga. Perché era lunga. Ok, va bene, c'è Andy Brehme sul... Andy Brehme ha cambiato aspetto, sembra lo zio Tobia, lo riconosciamo, sputa come il nonno invece. I ragazzi di padre Tobia, ti riferisci a quelli, non sì, era lo zio Tobia. No, era lo zio Tobia, cioè, zio Tibia. No, sei fortunato. No. No, silenzio. No. L'unico vero spettacolo in campo, purtroppo rischia di lasciarlo. Speriamo che ce la faccia a riprendersi, è addolorato a un ginocchio. Facciamo un minuto di silenzio, sperando che sia femmina. Guardate, Riedel viene preso a calci anche dal commissario della FIFA. Ed esce davvero Klinsmann, sono stato profeta in patria, la prima volta che succede. No, sai cosa sei stato? Lungimirante, semplicemente. Hai ragione Marco. Vedete, Klinsmann è Riedel ha i blocchi di partenza. Ed esce finalmente Klinsmann. Ma non ci frega niente, siamo in pensiero e in pensione per l'uomo che è steso in area di rigore, un portiere, un gittafione, allora... un uomo, un bambino, Moussaba, .4, eccolo qua, ha preso una botta in testa, credo. Per fortuna rimane in campo, al suo posto poteva entrare Abdullah Moosa Abdullah oppure Abdulkader Mohamed. Nel frattempo devono aver preso il campo per una sputacchiera, visto che continuano a riversare saliva sul terreno di gioco. Il portiere ha 26 anni, e questa è la notizia che trovo sul nostro computer. Cioè, è veramente sensazionale questa notizia, se mi permetti. No, scusa, me la ridici? Cioè, ci ha agitato tutti nello scompiglio. Io non so se riesco a continuare la radiocronaca, Carlo, sono veramente esterefatto. Cioè, dalla tu a cosa questo mi punto detto. Mi vieni a dire che il portiere ha addirittura 26 anni, non 27 o 25 che uno potrebbe ma capire. Ma cambia completamente la visione di questa gara, ma ti rendi conto? Cioè, allora tutto ha una logica a questo punto, perché il portiere ha 26 anni. Intanto segnano, vabbè, se qualcuno c'era una mano che però l'arbitro non ha segnalato, non ha fischiato e neanche Pairetto, non so per quale motivo. era probabilmente da Ferrato pronunciare qualche altra frase che però Giorgio ti pregherei di non pronunciare. Sì, perché è un accento torinese che non ha nulla a che vedere con la vita, e in segreteria invitiamo gli ascoltatori di Torino a lasciare il vero accento di Torino, perché abbiamo uno zozzone che tenta di imitarvi e a insultare Giorgio. Ci riesce male, no, insultare Giorgio. Ma io non imito i torinesi, so di non essere capace. Io ho sentito con le mie orecchie pronunciare a Peretto durante una conferenza stampa di fronte a 30.000 giornalisti per 6 volte consecutivamente la frase "ti piace la menta". Io purtroppo non ho colpe di tutto ciò, ambasciatore non porta pena, e mi limito semplicemente a riferire quello che ho sentito con le mie orecchie. Sono quindi i tedeschi che possono tranquillamente ripartire in avanti, la partita è sempre sul filo di un equilibrio che può apparire sempre instabile o stabile o stabile o instabile. Ecco, visto che stai cazzeggiando, passami il Ritter Sport, me ne mangio un cicinin. Ti piace il Ritter Sport? L'altro giorno incontrato Peretto, ha detto Peretto questo, sì, no? Ha detto prima della partita all'arbitro che non l'aveva ancora assaggiato, ma che subito dopo ne è diventato un ghiottone. Mentre Littbarsi sul pallone le dà in mezzo a Lothar Matthäus. Bravo, in avanti per Ritter, che non vede ancora la palla, non l'ha ancora toccata. E però il portiere l'ha bloccata, andrebbe premiato credo con una medaglia al valore, un ottimo intervento di Mubarra o Mubarrera o Musabba. Musino Musabba, credo, se non ricordo male. Musino Musabba Farage, il suo nome completo. Musino Musetto, Carlo, soprannominato. Ed è Pierre Ribaschi, l'uomo triste. Avete visto l'espressione che ha questo giocatore con gli occhi all'ingiù. È una cosa strana che non vi sto qui a spiegare. E il portiere, vabbè, no, è calcio di rigore, no, o è gol? È gol, no, no, è calcio di rigore, non è gol. Cioè, in difesa schierano gli Emirati Arabi i fratelli De Regge, che si rendono colpevoli di questa azione. Quindi ci sono 3 Mubarak, 2 Abdul Rahman e 2 De Regge. È rigore, anzi è gol, anche se io avrei fischiato rigore. Cioè, nell'occasione abbiamo visto un'uscita a farfalle, un colpo all'indietro, è un colpo di mano, è un colpo all'indietro. È un autorete, tutto, è un genio, quello che ha fatto l'autorete è il più grosso genio di tutti. Parli 3, porti a casa 1. Vorrei rivedere. Guardalo, questa è quella, no. Dove la metto in rete. Non è possibile. Attenzione, erano Mario e Pippo Santonastaso, mi giunge la notizia, colpo di mano e la metto là. Complimenti agli Emirati Arabi, una difesa veramente incredibile. Vuoi ridire per cortesia la formazione dopo le sostituzioni, Carlo? Dovrebbe essere allora così: Musabba, Mario Santonastaso, Pippo Santonastaso, Gianni e Pinotto centrali e un paio di fratelli De Regge. La linea alle radio, ci sentiamo fra pochissimo. Sei riuscito a ricordartelo? Presto si scrive C barretta O, mi raccomando. Il problema è come si scrive push pull, non ve lo diciamo, dovete indovinare, consultate un vocabolario. A fine partita vi faremo lo spelling, non adesso perché c'è un risultato che potrebbe cambiare da un momento all'altro. C'era un'incursione aerea di Luftwaffe. A fine partita, riavvisiamo le radio in onda. Non tagliate per cortesia la sigla finale come è successo ieri in qualche radio. Invito gli ascoltatori però a non protestare sulla nostra segreteria, non ne siamo i colpevoli. Casomai protestate con chi volete. Chi sarà stato mai a tagliarlo? Non certo noi, perché noi abbiamo mandato la sigla con alcune vostre telefonate, cosa che succederà puntualmente anche stasera. C'è gente che si è fatta un mazzo come un campanile per fare questo montaggino, e quindi per cortesia, se non lo tagliate, ci fate un favore. Grazie mille, complimenti, grazie, scusi, tornerò. Vai, infortunato IM. No, e allora lascio lo studio, perché non è possibile. Per la precisione si chiama Abdul Rahman Ibrahim Meher. E per la precisione chi se ne frega. E da 23 anni. Va bene, è un disco mix di chi se ne frega, non hai pensato di metterlo in questa tua dichiarazione? No, lo facevi tu, quindi io me ne sono guardato bene. Questo tiro, lo dico per gli juventini in ascolto, era di Thomas Hessler ed era una bella ciofeca. Ed è un bel replay che si ferma prima di farci vedere il tiro. Sì, sorride contento, ha preso solo 7 gol in 2 partite, la media è abbastanza buona. Soprattutto le pernacchie che sono volate dallo stadio di San Siro gli hanno rallegrato la giornata. No, ma ti devo dire una cosa, lui non ha preso gli altri 2 gol con la Colombia, perché in quell'occasione ha giocato Abdullah Moosa Abdullah. Hanno detto no, questo portiere non va bene, ha preso ben 2 gol. Sì, perché è vecchio, hanno detto. Infatti del 58 aveva. Ah, quindi è per quello che hai voluto renderci partecipi di questa tua gioia nell'aver scoperto che ha 26 anni, se non ricordo infatti, male. Hanno detto mettiamo un portiere meno esperto, però più capace, hanno messo Musin Musabba Foraj. Quindi quindi probabilmente nel prossimo incontro gli Emirati Arabi, l'incontro che si giocherà contro chi cavolo è, dunque Colombia e l'altra squadra, non me la ricordo più, Jugoslavia. Contro la Jugoslavia schiereranno un diciottenne probabilmente, sì, che prenderà 9 palloni. In effetti questo portiere è meno è più capace ma meno esperto, e la sua inesperienza la si vede quando fa le uscite sui corner, che le fa con le spalle rivolte alla porta avversario, cosa che solo un portiere di 34-35 anni capisce. Esatto, che sono sfumature del mestiere, sono cose che possono sono vecchi trucchi, sono cose che possono piacere o non piacere, a noi piacciono, questo è quello che ci caratterizza. Matheus fa partire orgoglioso un'altra azione, Uwe Bein si gira, si volta, si lutulla come un babbione, la palla a Andy Brehme. Vabbè, allora picchiatelo con una scura e fate di tutto. Che non è una cattiva idea? Se potrebbe essere fatto, sono cose che possono piacere o non piacere, a noi piacciono. E va così. Intanto Brehme stava... Eccolo qua, l'abbiamo visto, stava eseguendo l'assurdo numero del nano con la maionese in testa di Austerlitz, un numero per cui si è reso famoso già parecchie volte nella vita, ma mai in campo, l'aveva sempre eseguito a casa. Ma attenzione, potrebbe cambiare il voto dell'incontro e forse anche la storia. Sì. Entra in campo col numero 13, un giocatore che non viene questo previsto nessun giornale. È direttamente un benzinaio. Si tratta di HM Usain, per la precisione. Hassan Mohamed Usain, un giocatore che ha 28 anni. Sei sicuro che non sia Hotel Motel Usain? No, e tra l'altro ti faccio presente che gioca nel Al-Wasl così come il portierino. E a questo punto un Meicoglioni ci sta proprio volentieri, sì, dopo questa affermazione. Ci sta come un carciofino sulla pizza e fichi. Intanto parte un cross e ancora si rende protagonista di un'illusione ottica. Non poteva essere vera questa azione del portierino che abbiamo visto. Complimenti, l'allenatore è soddisfatto, gli urla se complimenti, una bella gara, hai preso solo 5 gol, sei un imbecille totale. Sentiamo invece Pairetto che urla qualcos'altro, ma non ve lo ripetiamo, lo sapete già benissimo a memoria anche voi. Calcio di punizione in favore degli Emirati Arabi. Bravo, sei stato lungimirante, infatti ci hai preso, è un calcio di punizione. Ma c'è un altro giocatore che si è infortunato, credo che sia Abdulrahman. Si è sbucciato il ginocchio, purtroppo. Chissà la mamma cosa gli dirà stasera quando torna a casa. Gli darà le Totò, intanto c'è... Totò le Mocò, gli darà proprio sul sederino. Sì, una cassetta, sono 24 volumi del peso complessivo di 2,5 quintali, glieli tirerà sulla testa e per lui sarà difficile vivere. Si tratta di V-doppia M... virgola 4 Musabba, virgola 4 periodico, è il numero 19 Abdulrahman Eissa Meher, un giocatore che ha solo 23 anni, il più giovane della squadra non è in campo in questo momento, sì, perché è andato a pescare, non aveva voglia di venire allo stadio oggi. Vabbè, è sfigurato. Intanto abbiamo il replay dell'incidente occorso a Abdulrahman. Sì, ha colpito di testa, questo è l'incidente occorso a Abdulrahman, ha colpito di testa, non sono abituati a questi interventi abbastanza difficili, devo dire la verità. E mentre c'è una festicciola in campo, adesso stanno scegliendo con chi ballare i vari giocatori. Uno si aggirà per il campo con in mano una scopa, la passerà agli altri, quindi poi cambieranno le cose. Usa pure parole tue, Giorgio, sta per uscire Khalid Ismail Mubarak. Per far luogo invece a Hassan Mohamed Usain. Potrebbe essere veramente una svolta.